11 e 24 del 10 agosto sono a casa, non è un pendolo delirio evidentemente. Qui c'è qualcuno però che sta delirando sul serio. Mia moglie è andata a fare la sua prima attività sociale da 15 mesi a questa parte, cioè è andata a fare la spesa, e quindi sono io qui in compagnia di questa bambina con cui ho a lungo ballato dei brani di Ella Fitzgerald, che però invece che addormentarla, come dire, le hanno dato un bel ritmo.